sono una persona normale, ho super riflessi che testo ai semafori. Quando scatta il verde e sto dietro in fila, sto nel premio meno di un secondo. Con il clacson, clac, clacson.